Le donne e gli uomini baggesi che lottano contro il regime fascista fin dalla sua ascesa al potere sono inizialmente una minoranza nel quartiere. Una minoranza capace di vincere la paura e di organizzarsi, rischiando il carcere, la deportazione e perfino di perdere la vita. Sono coloro che gettano le basi per arrivare, dopo quasi 20 anni, a un ampio movimento di liberazione e alla vittoria della resistenza antifascista. Nella notte lo guidano le stelle. A 14 anni, ancor prima che i fascisti andassero a bruciare la cooperativa, ci siamo ribellati. Io e un certo Caniga abbiamo incominciato a reclutare un po' di gente che la pensava come noi: i Restelli, Mantovani, Frati, San Gregorio, l'Arturo, Corti, Abico. Tutte le settimane ci riunivamo per fare delle discussioni. Andavamo a distribuire i manifestini, mentre i fascisti andavano in giro con olio e manganelli. Nel 26 hanno arrestato due di noi, li hanno picchiati e hanno fatto anche il mio nome. L'indomani mi sono venuti ad arrestare. Ci hanno incatenato tutti e sette insieme. Avevo 16 anni e un fascista, il Boggi, mi ha puntato provocatoriamente la pistola al ventre, ma non ho mostrato di aver paura. Ci hanno pestato in questura, di lì ci hanno portato a San Vittore. Ci hanno messi al quarto raggio, quello dei politici, poi ci hanno mandato nelle camere di minorenni politici. Noi però non abbiamo parlato. Ci hanno processato per direttissima dopo 4 giorni, condannato a 2 mesi e 7 giorni per la distribuzione dei manifestini e 5 anni per appartenenza al PC con la condizionale. Noi abbiamo comunque continuato lo stesso a svolgere attività politica. Una volta avevo 5 o 6 rivoltelle, un sacchetto di pallottole e li ho nascosti sulle grondaie di casa mia. Mentre li portavo a casa, ho incontrato i fascisti di Baggio, mi hanno chiesto cosa avessi nel sacchetto. Ero deciso a difendermi anche sparando se mi avessero scoperto le armi. Dopo l'armistizio del 1943, la partecipazione alla resistenza antifascista diventa sempre più di massa. Sono gli anni della guerra, della Repubblica di Salò e della fame, in cui si intensificano i rastrellamenti, gli arresti, il confino e le deportazioni. Sono gli anni che porteranno all'insurrezione del 25 aprile del 1945 e alla liberazione dell'Italia dal regime fascista. Il mio nome di battaglia era Giuliana. Ho incominciato a svolgere attività politica clandestina nel 1943, a 17 anni. Lavoravo alla Borletti ed ero incaricata di portare stampa e materiale propagandistico. In ogni fabbrica c'era una delegazione, una specie di commissione interna clandestina. Quando veniva la resega o la muti, noi donne ci mettevamo in mezzo ed impedivamo i rastrellamenti, difendevamo gli uomini. Per questo una volta mi hanno portata in questura. Pioveva. Avevo su zoccoli e grembiule e mi hanno portato via così, sotto l'acqua, a piedi fino in piazza Piemonte e poi sul tram. Il comandante Costa ci ha fatto la paternale. Noi continuavamo a dire di essere operai, di lottare perché avevamo fame. Allora ci ha offerto dei soldi per i più bisognosi. Ma noi le avevamo detto che bisognosi lo eravamo tutti, perché in realtà voleva solo comprarci. Avevamo paura, ma nonostante il rischio di non tornare più indietro, alla fine l'abbiamo spuntata. Nel frattempo la fabbrica si era bloccata per uno sciopero spontaneo di protesta e solidarietà. Quando c'erano gli scioperi andavo in tutti i reparti a spegnere i motori delle macchine e rischiavo la fucilazione per sabotaggio. Ne abbiamo fatti molti di scioperi. Ci sono state anche delle ritorsioni. Piera Carla, che abitava al monastero, e Maggioni Bruno, di via Scanini, che sono stati portati al campo di Fossoli. Poi però sono riusciti a scappare. Qui i tedeschi non ricordo che abbiano fatto del male. Noi però li odiavamo e li temevamo allo stesso tempo. A Baggio i maggiori danni li hanno fatti i fascisti. Un certo Massetti andava in giro a dare l'olio di ricino. I fascisti facevano rastrellamenti, prendevano gli operai che andavano a lavorare in bicicletta per mandarli in Germania o a Fossoli. Per l'assistenza alle famiglie dei deportati e dei partigiani ero collegata con la Pina De Angeli, la carbonaia. Negli ultimi mesi, prima dell'insurrezione, ho accompagnato un giovane sull'autostrada del Sempione, dove c'era un nostro camion, che doveva portarlo in montagna tra Lecco e Como. Dopo poco che era partito, abbiamo sentito una sventagliata di mitra. I tedeschi l'avevano ucciso. Facevamo parte dei GAP, gruppi di azione partigiana, fin da prima dell'8 settembre. Il 25 aprile abbiamo sfilato anche noi in parata con quelli di Moscatelli. Abbiamo assaltato le caserme e facevamo scappare i fascisti con le bombe a mano. Ore prima eravamo pochi, ora siamo folla, però dietro di noi a sorreggerci, ad aiutarci, a nasconderci, a sfamarci, a informarci, c'è sempre stata questa massa di popolo che ora corre per le strade, si abbraccia e ci abbraccia e grida «Viva i partigiani!»